Punto. Punto e a capo. Una settimana di attualità di Gigi Donelli. Eccoci qua, cari ascoltatori, a fare dunque il punto della settimana, la settimana che abbiamo vissuto attraverso l'ascolto della radio, come sempre facciamo qui a Punto e a Capo. E allora, questa settimana ripartiamo dalla politica, andiamo dritti alla giornata di giovedì e andiamo, in realtà partiamo da un quotidiano, infatti la sequenza che ci interessa viene innescata dalle pagine del quotidiano di famiglia Berlusconi, quindi il giornale. È il giornale, è dal giornale che il ministro Galan attacca la dirigenza attuale del PDL e chiede a Silvio Berlusconi di arginare lo spettro di Giulio Tremonti, che aleggia su ogni decisione. Così scrive, così appunto Galan nell'intervista, e aggiunge: è tempo di rinnovare il partito e la sua classe dirigente, operando una rivoluzione dalle fondamenta di un PDL nel quale ormai è molto difficile riconoscerci. Allora il punto ce lo fa Vincenzo Miglietta. Prima una nota ufficiale del governo a firma Berlusconi, poi il faccia a faccia a Palazzo Grazioli. Il presidente del Consiglio blinda di fatto la posizione di Tremonti. Grazie alle linee di politica economica, spiega il Premier, l'Italia ha garantito la tenuta del bilancio dello Stato e con questa la sicurezza del risparmio e la coesione sociale. È una linea, ricorda Berlusconi, che deve essere mantenuta in un contesto di permanenti turbolenze finanziarie nel mondo. Parole quelle del Cavaliere, tese a fermare una volta per tutte le critiche non troppo velate di parte della stessa maggioranza al ministro dell'economia. L'accusa è quella di pensare solo alla stabilità dei conti e non alla crescita. Da ultimo le parole del ministro per i beni culturali Galan, che al giornale dice: con Tremonti si perdono le elezioni. Galan si rivolge quindi allo stesso Berlusconi reclamando una scossa, poi aggiunge: Tremonti è un socialista che ritocca tutti i provvedimenti. Parole queste bocciate non solo da Berlusconi ma anche dal coordinatore del PDL Verdini e dai ministri La Russa, Brunetta e Matteoli. Il governo è paralizzato, commenta Bersani, la rissosità nella maggioranza è alle stelle, dice Casini. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Sta dunque cedendo il primo cerchio, la bolla di compattezza sacrale tipica dei periodi elettorali che certificava il controllo di Silvio Berlusconi sui vertici del PDL e sul governo, come scrive Massimo Franco sul Corriere, oppure come scrive Folli sul 24 Ore di venerdì. Il caso in quanto tale non esiste, ma l'uscita di Galan racconta una frustrazione diffusa. Punto e a capo. Nucleare si smobilita. Questo potrebbe essere invece un altro titolo della settimana, senza dubbio. Tra i 7 e gli 8 miliardi di euro l'anno di tassa da abbandono nucleare già pagata negli ultimi 23 anni, da quando il referendum post Chernobyl ci ha fatto chiudere dalla sera alla mattina le nostre centrali atomiche. Ed ecco ora la tassa da mancato riavvio, quello che sta maturando con la smobilitazione del piano governativo di rientro, quantificabile con grande difficoltà, ma che gli esperti stimano di proporzioni forse un po' minori, visto che il ritorno nucleare da zero avrebbe costi comunque consistenti, con vantaggi che almeno per i primi anni sarebbero meno evidenti. Insomma, il nucleare, che aveva, come dire, come orizzonte quello del referendum, viene fermato. E noi ripartiamo invece dal fabbisogno, con il punto che ci fa Cristina Carpinelli. L'Italia ha consumi di energia elettrica per circa 337.601 gigawatt-ora. È il fabbisogno nazionale lordo ed è ricavato dalla somma di ogni singolo impianto di produzione e il saldo degli scambi con l'estero. Se si escludono i consumi imposti, si ha un consumo nazionale netto di 320-268 gigawatt-ora, con un decremento del 5-6% nel 2009 sul 2008. Si usa meno energia perché c'è stata una riduzione dei consumi industriali. La necessità energetica è stata coperta nel 2009 per il 67,3% con le centrali termoelettriche, che bruciano principalmente combustibili fossili, in gran parte importati dall'estero. Di questi, piccole percentuali, inferiori al 2%, sono a biomassa. Il 19,6% arriva invece dalle rinnovabili, per un totale di energia elettrica di produzione nazionale lorda di 292.641 gigawatt-ora. Il resto è importato dall'estero, e cioè equivale al 13,3%. I dati sono riferiti al 2009. Secondo quelli provvisori del 2010 c'è un incremento dell'energia proveniente dalle rinnovabili pari invece a circa il 22%. L'aumento del peso delle rinnovabili è determinato da una crescita della produzione idroelettrica e da una crescita sostenuta dell'eolico e del fotovoltaico. E ora Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, esperto di queste tematiche, che invece riflette sul costo appunto di questa decisione. La conclusione più grave, più triste, è questo 20%-30% in più che abbiamo noi sull'energia, in particolare elettrica, rispetto agli altri paesi europei, OCSE. E l'elettricità costa 20-30% in più. Questa è la conclusione di questa vicenda, ma vorrei anche tranquillizzare, non è che quanto accaduto in queste ore, in questi mesi, sia molto diverso da quello che accade negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80, cioè ci inseriamo nel comportamento di lungo termine di questo paese, caratterizzato dall'impossibilità di fare decisioni di grande respiro, di grande coraggio, di grande portata, ecco, perciò alla fine sì, scegliamo grazie alle liberalizzazioni tutti i cicli combinati che vanno tutto a gas. Adesso siamo l'unico paese al mondo che dipende così tanto nella generazione elettrica da gas importato, c'è l'UK che usa molto gas ma è tutto nazionale, e niente, alla fine è questo, ecco, penalizzare il nostro sistema produttivo. E anche, cioè, questo è la cosa più pericolosa, è che ci sia questo distacco dalla realtà, che è una realtà preziosa, ricca, del nostro paese, che è l'industria, l'industria del fare. Noi abbiamo il dovere di dire come fornire di elettricità a condizioni più competitive e sicure questo sistema produttivo. Infine Rosa Filippini, presidente degli Amici della Terra. Modo di affrontare la questione del nucleare da parte del governo non era molto seria, come alcuni commentatori invece sostenevano. Mi sembra che tutti i passaggi, sia dell'avvio che della fine di questa avventura, di questa mini avventura nucleare, sono stati tutti fuori seri. Si fa credere che nucleare e mettiamo fotovoltaico siano in contrapposizione, e non è vero, semmai è vero il contrario. Ma una cosa d'approccio che non condivido è quella di parlare solo di elettricità. Allora, il bilancio energetico di un paese non è fatto solo di elettricità, anzi l'elettricità è una parte addirittura minoritaria. Giustissimo. C'è per esempio un 40% del bilancio dell'energia che se ne va per necessità di riscaldamento. Come no? Su cui nessuno riflette. E su cui siamo enormemente inefficienti, e su questo ha perfettamente ragione. Tra l'altro gli incentivi su questo davvero che andavano fatti per l'edilizia eco-efficiente, termo-efficiente, eccetera eccetera, noi siamo terribilmente indietro. Su questo ha ragione. L'Italia non parte male in termini di efficienza, su molti settori questo è un paese all'avanguardia, sia rispetto all'Europa che al resto del mondo. Però abbiamo questo grosso buco che è il residenziale, dove invece abbiamo edifici molto poco efficienti. Nucleare, sinonimo dunque di referendum, così come in queste settimane anche il tema dell'acqua. E allora, quando il ministro dello sviluppo economico dice che sull'acqua pubblica serve un approfondimento a livello legislativo, la reazione è immediata. Agenzia di giovedì: il tentativo del governo di tappare la bocca ai cittadini è disgustoso, pericoloso e indegno, un vero colpo di Stato, dice il capogruppo dell'Italia dei Valori, Felice Bellisario. Dopo le dichiarazioni, dunque, gli interventi. Paolo Piacenza ha intervistato il presidente del WWF, Stefano Leoni. Per quanto riguarda un'eventuale sospensione del referendum, allora, o in questo caso si interviene se si vuole evitare il referendum secondo la proposizione dei comitati promotori, ossia una effettiva abrogazione delle norme che noi intendiamo sottoporre a consultazione referendaria, oppure il referendum si farà comunque. Pertanto, se ci deve essere un intervento, che sia un intervento il più possibile chiaro e senza fraintendimenti. Quindi non chiudete la porta al fatto che l'intervento possa essere fatto? Se il governo fa un passo indietro e abroga la norma che prevede l'obbligatorietà della gestione del servizio idrico integrato solamente in capo a strutture private, effettivamente abbiamo ottenuto quello che intendevamo ottenere. Pertanto il motivo per cui si debba andare a fare il referendum, sia sotto il profilo di merito, sia sotto il profilo normativo, viene meno ovviamente. Noi temiamo in realtà che si possa andare a una sorta di guazzabuglio come quello del nucleare, dove non si capisce bene la portata della fase abrogativa, in quanto rimane ancora l'interesse alla consultazione, perché non c'è un'esplicita rinuncia al programma nucleare. Noi chiediamo chiarezza, perché nell'ambiguità non si risolve nulla. E per chi fosse interessato ad approfondire invece il tema acqua, l'appuntamento è per le 19.30 di questa sera, 30 minuti in cronaca. Parliamo ovviamente di acqua con il professor Antonio Massarutto, che ha appena pubblicato un saggio dal titolo evidentemente molto attuale, Privati dell'acqua, con il punto di domanda. Punto e a capo. Dopo aver ricevuto varie minacce di morte, la sera del 14 aprile Vittorio Arrigoni viene rapito dopo l'uscita dalla palestra di casa che frequenta. Un video immediatamente pubblicato su YouTube dai rapitori, un gruppo terrorista salafita, mostra Arrigoni bendato e legato. Accusa l'Italia di essere uno stato infedele e l'attivista di essere entrato a Gaza per diffondere la corruzione. Viene lanciato un ultimatum. La minaccia è l'uccisione di Arrigoni entro il pomeriggio del giorno successivo e viene chiesto in cambio della sua liberazione la scarcerazione di alcuni militanti jihadisti. Il giorno successivo il corpo senza vita di Arrigoni viene rinvenuto dalle brigate Ezzedine El Kassam nel corso di un blitz in un'abitazione appunto della città di Gaza. L'autopsia, svolta all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, conferma quanto detto dalle fonti palestinesi. La morte è avvenuta per strangolamento con una corda. Mercoledì 20 aprile a Radio 24 parla Egidia Beretta, madre di Vittorio Arrigoni. A me interessa sapere perché. Ecco, perché è successo questo? Perché hanno mirato a Vittorio, perché hanno preso Vittorio. Penso tante cose, penso che Vittorio era in procinto di partire, lo hanno voluto fermare prima. Vittorio stava raccogliendo moltissimo materiale per scrivere un libro, un documento per parlare delle sue esperienze con i pescatori, con i contadini. Cioè, tante cose mi passano per la testa, però non me la spiego. Non se la spiega. No. Senta, la salma di suo figlio arriverà oggi a Roma. Sì, lei prima ci siamo parlati, ha detto non è previsto alcun tipo di cerimoniale. Insomma. Sì, sì, sì. E questa cosa le dà fastidio? No, penso che sia una cosa normale. Vittorio arriva come un bagaglio. Perché lei ha voluto che neanche la salma di suo figlio passasse per Israele, ma invece è passata dal sud della striscia di Gaza in Egitto? Quello che ha detto suo papà, proprio tranchant. Israele non ha mai voluto Vittorio da vivo e non lo vedrà passare neanche da morto. Questo mi sembra una questione di pura coerenza. Però lei sa che, voglio dire, si sono sentite tante parole da qualcuno addirittura di condanna nei confronti di Israele quando suo figlio poi è stato ucciso da un gruppo certo fondamentalista, ma delle stesse persone che lui voleva aiutare. Se andiamo indietro nella storia, senza permettermi assolutamente di fare paragoni che sarebbero impropri, andiamo a vedere chi ha ucciso Rabin. Che ha ucciso Gandhi, non voglio fare paragoni, però molte volte è proprio il popolo a cui ti rivolgi che ti si rivolta contro. Quindi. Suo figlio non era molto amico, diciamo, dello Stato israeliano, no? Delle politiche israeliane. Ci mancherebbe, quando siamo di fronte a un oppresso e a un oppressore, cioè non c'è neanche da domandarsi verso chi va la propria scelta. Beh, queste sono letture politiche, come sa, molto molto dibattute. Le chiedo, suo figlio odiava lo Stato di Israele? Dello Stato di Israele l'assedio criminale di Gaza. Cioè, non è tanto odiare uno Stato, è scrivere e dire cosa stava facendo Israele verso la popolazione. Quindi Hamas o non Hamas, lì c'è 1,5 milioni di persone tuttora che praticamente vive allo stremo. e non è che lo dicesse solo Vittorio. Però questa signora, lei come sa, insomma, le versioni possono essere viste da due parti. Da Israele possono dire che sono partiti per anni missili a colpire la popolazione, cioè la lettura... Quanti morti hanno fatto questi missili? Quanti morti hanno fatto i missili? Beh, ci sono stati molti morti, ci sono stati anche attentati. Ci sono stati... Quanti morti ci sono stati a Gaza? Non ho il computo, ma non credo che sia una questione di numeri, di fare un morto in più da una parte o dall'altra. Ci mancherebbe altro, però un qualche termine di paragone si può anche utilizzare. Quindi la deprecazione universale dei morti israeliani, ma ci mancherebbe altro. Io sono stata la prima a scrivere, quando venne ucciso anni fa uno studente con un missile, che deprecavo questo. Poi però successe che per un morto israeliano furono uccisi 200 o 300 palestinesi. E allora mi dicevo che anche in via Rasella a Roma successe così, no? Il giornale Libero dicono che tra le motivazioni, tra i moventi dell'omicidio, potrebbe essere uno stile di vita non... Perché sorride? Uno stile di vita non accettato dai fondamentalisti islamici. Lo stile di vita di Vittorio? Sì. Tante volte quando mi capitava di vederlo dicevo: povero Vittorio, come sei conciato, sei vestito che sembra un barbone. Cioè lo stile di vita di Vittorio era lui faceva la vita con gli altri, quindi... E quando seppe che fui rieletta nel 2009, non mi dice: vado a festeggiare, con che cosa? Con il pollo, mamma, no? Pollo e riso. No, che stile di vita occidentale, Vittorio, assolutamente. Che cos'è accaduto a Vittorio Arrigoni? Ugo Tramballi, inviato del Sole 24 Ore, cerca di aiutarci a capire il contesto in cui questa tragedia è avvenuta. Hanno preso tutti gli assassini e ora giustizia dovrebbe essere fatta. È difficile tuttavia accontentarsi di questo. Vittorio Arrigoni è stato ucciso da una banda impazzita di salafiti, è evidente, ma è stato anche vittima dello scontro scismatico e medievale tra i salafiti ultraortodossi sunniti e Hamas, sì movimento sunnita, ma traditore perché accetta l'aiuto degli iraniani, sciiti, dunque empi. Infine Arrigoni è stato ucciso dal caos di Gaza, nel quale avvengono queste cose, e dove i palestinesi del movimento islamico sono in conflitto insanabile con i palestinesi laici di Fatah. Vittorio Arrigoni dunque aveva deciso di dedicare la sua vita alla causa della liberazione palestinese e si è trovato in un dedalo di odi e di anarchia che alla fine lo ha ucciso per niente. Punto e a capo. Terza parte del nostro appuntamento con la settimana delle notizie. Ripartiamo dalla Libia. Libia ancora nell'attualità, mentre l'enfasi per l'operazione internazionale in realtà si attutisce progressivamente. L'Italia assume la linea della prudenza, mentre Washington quella della soluzione tecnologica e introduce i droni, quindi gli aerei senza pilota, nella sua linea di attacco. Ieri i ribelli libici si sono dichiarati entusiasti per la decisione presa da Washington. I combattenti dell'opposizione hanno infatti auspicato che il loro utilizzo possa mettere termine all'assedio di Misurata da parte delle forze fedeli al colonnello Gheddafi. Si tratta di un aereo speciale che può essere utilizzato in aree urbane, ha dichiarato Mustafa El-Guerriani, uno dei portavoci del Consiglio Nazionale di Transizione di Bengasi. Naturalmente, dal punto di vista americano, tutto questo senza il rischio di perdere i piloti piuttosto che di vederli ostaggio appunto delle forze armate del colonnello. E ora dal Mediterraneo ci spostiamo all'Oceano Indiano, dove la pirateria torna a colpire. Giovedì la Rosalia D'Amato è stata sequestrata da un gruppo appunto di pirati a circa 300 km a est dell'isola di Socotra, a sud dell'Oman. Ora la nave, un cargo di oltre 70.000 tonnellate, 225 metri di lunghezza complessiva, sta proseguendo la sua navigazione verso le coste somale. A bordo 22 membri dell'equipaggio, tra cui 6 italiani e gli altri filippini. L'attacco ha avuto luogo intorno alle 4 di notte, quando due piccole imbarcazioni si sono avvicinate alla grande motonave. I pirati, hanno riferito le fonti, sono saliti a bordo e hanno sequestrato la nave senza sparare un colpo. Un sequestro, appunto questo ultimo della Rosalia D'Amato, che Secondo Paolo D'Amico, presidente di Confitarma, la Confederazione Italiana degli Armatori, si poteva evitare. Sì, se noi avevamo già le norme a posto e ci permettevano di imbarcare i contractor, questo non sarebbe successo. Quindi qual è la priorità a questo punto secondo lei e che cosa chiede al governo? Noi chiediamo che ci sia un passaggio normativo che ci permetta di imbarcare personale armato sulle navi tra il Mar Rosso e l'India, cosa che non è possibile oggi. Questi attacchi sono dal 2005, che abbiamo avuto subito 30 attacchi le navi italiane, dal 2005 a oggi. Quindi è una cosa vecchia, c'è un'urgenza, fa parte delle varie urgenze, non c'è solo la Libia, c'è anche questa. Questa è una delle emergenze del paese. Ci sono 5 disegni di legge, no, alla Camera, al Senato? Esattamente, 4 del governo e 1 dell'opposizione, quindi sarebbe oltretutto un passaggio bipartisan, direi. Quali saranno i passi che farete adesso? Io sto ancora in attesa di essere ricevuto dal Ministro della Difesa, vediamo se questo succede presto. Punto e a capo. E ora parliamo delle bestie di Satana. Ricordate, era il nome di un gruppo di giovani della provincia di Varese, responsabili di vari omicidi e di un'induzione al suicidio a sfondo satanista. Eventi che riempirono di fatto le pagine di cronaca nera e che portarono invece nel 2007 a una sentenza di condanna appunto per i membri della setta. Bene, Elisabetta Ballarin, la ragazza condannata a 23 anni di carcere per l'omicidio di Mariangela Pezzotta, dopo 7 anni di carcere ha ottenuto il permesso di lasciare la sua cella 4 giorni la settimana per frequentare l'università a Brescia. Silvio Pezzotta, padre della vittima, incrociando la Ballarin in un corridoio del tribunale di Busto Arsizio, anni fa le promise: quando avrai pagato il conto con la giustizia, la porta di casa mia per te è aperta. Ecco, Silvio Pezzotta quelle parole le ricorda ancora e mercoledì ne ha parlato a Radio 24 con Alessandro Milan. Per l'assassina di mia figlia che io ho conosciuto, le porte di casa mia saranno sempre aperte. Ora si è saputo che l'assassina di sua figlia uscirà 4 giorni dal carcere per studiare. Lei ha detto va bene così, se ha scontato la sua pena è giusto che abbia una seconda occasione. Conferma? Confermo e dico anche che non penso proprio che sia l'assassino di mia figlia, anche perché era Volpe l'assassino di mia figlia e lì è un altro caso. Con Elisabetta conta l'età, conta il plagio, conta tante situazioni, contro la droga, contro tutto, ed è secondo me un passaggio importante della sua vita che lei sta costruendo e forse, e non dico forse, ma è giusto dargli forse una chance. Perché lei dice è giovane e se ha sbagliato e se paga e se ha pagato col carcere è giusto che abbia una seconda. Questo è il principio della redenzione, insomma un principio sacrosanto della nostra legislazione. Però lei sa, signor Pezzotta, che molta gente dice ecco ma non c'è la certezza della pena, vedete, basta fare pochi anni di carcere e poi uscire. Ci sono casi e casi, perché io ho citato un nome prima che secondo me i 20 anni che gli hanno dato sono pochissimi, vede che ognuno poi può pensare quello che vuole, ma i dati di fatto sono che uno deve pagare per quello che ha fatto. Lei dice Elisabetta Ballarini era stata plagiata ed era stata, non è stata diciamo la protagonista di questa vicenda. Non è stata la protagonista, è stata come le altre donne di Volpe, di cui mia figlia, che mia figlia purtroppo ne è uscita ma ne è rimasta poi in un altro modo. Dal processo mia figlia non si drogava, non ha fatto questo, non ha fatto quell'altro, ma alla fine è quando ha detto che aveva abbandonato Volpe, alla fine lui era il boss. Punto e a capo. Giovedì 21 aprile, su ordine dei magistrati di Palermo, è stato arrestato per truffa e calunnia Massimo Ciancimino, l'ultimo figlio di Don Vito, il sindaco del Sacco di Palermo. Lui, per quasi 3 anni, ha parlato con i magistrati di più procure, collaborando con le carte del padre, alle inchieste sulla cosiddetta trattativa tra Stato e mafia, ma proprio per uno di questi fogli è stato arrestato. Gli sviluppi dell'inchiesta e il profilo di Massimo Ciancimino in questo servizio curato da Raffaella Calandra. Ricordati che tanti pentiti hanno parlato del terzo livello inizialmente, ma poi si sono frenati perché dice che non c'erano le condizioni politiche. Ricordati che il signor Franco è il quarto livello. Le stesse parole che Massimo Ciancimino affidò a Storiacce quasi 3 anni fa, il figlio di Don Vito le ha ripetute dopo il suo nuovo arresto. Un arresto per truffa e calunnia aggravata, un arresto che spacca le procure e che potrebbe essere uno spartiacque nelle inchieste sulla trattativa tra Stato e mafia. Dopo quasi 3 anni di rivelazioni, interrogatori, polemiche e veleni sui segreti più inconfessabili della Repubblica. È uno degli ultimi e più delicati foglietti consegnati ai PM a portare in carcere Massimuccio, come lo chiamava quel padre che i corleonesi di Riina e Provenzano vollero sindaco di Palermo. Un foglio che sarebbe stato manipolato, secondo l'accusa. Una fotocopia di una cartolina che il padre nel 90 mandò a se stesso con un elenco di nomi, ex ministri, ex uomini delle istituzioni, tutti associati a quella che, secondo Don Vito, sarebbe stata la supercupola del quarto livello. Tutti, compreso un nome la cui identità era nascosta dietro la sigla FC Gross. Accanto, con una freccia, è stato poi scritto a mano De Gennaro, ossia il prefetto Gianni De Gennaro, il capo dei servizi segreti, il super poliziotto che rimase al fianco di Giovanni Falcone durante il maxi processo. E per calunnia proprio nei suoi confronti, Ciancimino ora torna in carcere, dove era già stato per il riciclaggio di parte del tesoro del padre. Ho paura, dice ora, come ci diceva tempo fa. Capite bene quelle che sono le mie riserve, quelle che sono anche le mie cautele nel procedere col lento lavoro che si fa con la magistratura nell'identificazione di questi personaggi, ma anche quelle che sono le mie paure. Un nome, quello di De Gennaro, messo a verbale da Massimo Ciancimino dopo averlo a lungo sussurrato, un nome che lui riconduceva a quegli ambienti di apparati che a suo dire furono cerniera tra Stato e Cosa Nostra, ambienti a cui apparteneva il misterioso signor Franco O. Carlo, di cui a lungo ha parlato, senza però saperlo identificare. Questo signor Carlo che ho visto diverse volte, ma che di fatto non mi è stato mai mostrato in quelli che sono gli elenchi messi a disposizione dei servizi, per cui ancora non si è potuti giungere, come per altri, all'identificazione certa di questo personaggio. Negli anni 70, nel momento in cui si era dovuto creare questo grosso collante tra istituzioni e Cosa Nostra, è proprio allora che mio padre viene chiamato al Ministero degli Interni e gli si accredita questo signor Franco come uomo vicino alle istituzioni, da tenere sempre costantemente informato di quale era l'evolversi della situazione, diciamo, anche di Cosa Nostra. Ha parlato e straparlato Ciancimino, portando oltre 250 documenti del padre ai PM, compreso il famigerato papello con le richieste della mafia allo Stato per interrompere la stagione delle stragi. Pizzini con nomi pesanti, da Berlusconi a Dell'Utri, biglietti, interrogatori pieni di rimandi, tra gli altri a Nicola Mancino e Luciano Violante. Tante ombre, oltre che polemiche, così come a le parole ha affiancato sempre prolungati silenzi. Ora ci si chiede se questo arresto possa mettere in discussione l'intera attendibilità di Massimo Ciancimino, il figlio scapestrato del potente Don Vito, il super teste fino ad ora nelle inchieste sui segreti dello Stato, ma a Palermo il procuratore capo Francesco Messineo frena. Valuteremo, dice, foglio per foglio. Punto e a capo. Ultimi minuti insieme per questo appuntamento settimanale con Punto a Capo. Noi ripartiamo da essere e benessere. Questa settimana, tra l'altro, si è parlato anche del rapporto tra sonno e alimentazione. Insomma, che rapporto c'è? Nicoletta Carbone ha avuto come ospite il dottor Filippo Ongaro, direttore sanitario dell'Istituto di Medicina Rigenerativa e Anti-Aging di Treviso, consulente dell'Agenzia Spaziale Europea. Sentiamolo. Credo che sia assolutamente vero. Diciamo che si fa prima ad elencare le pochissime, forse in realtà non esistono, cose con cui nutrizione e sonno non sono connesse. Cioè, sono due pilastri fondamentali della nostra salute e quindi sono anche interconnessi tra loro. Quello che stava dicendo lei un attimo fa dei disturbi magari occasionali del sonno che così in via intuitiva imputiamo all'alimentazione, in realtà basta pensare per esempio al mangiare troppo tardi e quindi andare a letto quando la digestione è ancora attiva, o all'assumere caffè nelle 6 ore prima di andare a letto. Sono per esempio piccoli errori che però possono avere anche un impatto abbastanza importante. Poi dopo c'è un lungo discorso che si conosce da tanti anni dei carboidrati, che tendono a favorire la formazione di neurotrasmettitori che inducono il sonno, o viceversa le proteine che tendono ad attivare, e anche una serie di principi nutrizionali nutraceutici che hanno un effetto importante sul sonno, tra cui il triptofano, il 5-idrossitriptofano, la stessa melatonina che è molto conosciuta. Quindi direi che c'è molto legame tra queste due sfere della nostra salute. Dottore, lei si è occupato per anni dell'invecchiamento accelerato negli astronauti, sviluppando dei metodi di intervento per rallentarli, che sono stati adottati sia dall'ESA che dalla NASA, dove ha lavorato a lungo presso il Johnson Space Center di Houston. Nello spazio il corpo umano invecchia ad una velocità drammatica, e i medici e i ricercatori hanno elaborato e sviluppato tecnologie per contrastare questo processo. Noi, basta che di tutta questa ricerca potrebbe beneficiare anche la medicina anti-aging pensata e formulata per chi resta sulla Terra e vorrebbe starci bene il più a lungo possibile? Certo, io guardi, tanto per dare un numero che penso possa essere interessante, molte ricerche hanno confermato che circa 6 mesi in orbita corrispondono a 10 anni a Terra. Quindi noi sappiamo bene che l'invecchiamento può essere accelerato, ci sono molti processi che accelerano l'invecchiamento anche per noi terrestri, non solo negli astronauti. Allo stesso modo molte ricerche hanno indicato che l'invecchiamento può essere modulato, e io credo che molto di questo sia già disponibile oggi. Forse è più una questione, non tanto una questione di ricerche e evidenze scientifiche, quanto una questione di aggiornamento della metodologia clinica dei medici, ecco, che è più impostata al curare la malattia che al mantenere la salute. Questo è un vecchio tema che però ancora in qualche modo non è stato risolto. Certo. In questi ultimi minuti parliamo, come di consueto, di cinema. Sta per uscire nei cinema italiani Notizie dagli scavi di Emidio Greco, il film presentato fuori concorso alla Mostra di Venezia, interpretato da Giuseppe Battistone e da Ambra Angiolini, che ora dice: la faccia del mio personaggio racconta molto del mio vissuto, anche nella sofferenza. Al di là della professione, mi piace, io poi lo faccio con grande onestà, cioè non sono provocatoria, non mi piace calpestare le persone, e che certe volte arrivo io con un passato che ho, che per me comunque è straordinario perché è unico e abbastanza curioso, no? Come percorso, sembra sempre che devo andare a rompere le uova di qualcun altro. Io invece non sono così. Mi succede, sì, che alcuni registi si facciano il problema, ma se prendo lei poi che succede? Io però sono tosta, cioè insisto, prima o poi un provino arrivo a farlo, insomma, con Bellocchio è un esempio che io faccio sempre perché è successo un po' così. Lui non ha nulla da dover giustificare a nessuno, quando ti chiama sei esposta al suo giudizio e non al pregiudizio. Questo per me è sempre un grande regalo, perché essere giudicata mi sta bene, fa parte del mio lavoro. Avere un giudizio precedente e per quello non darmi la possibilità certe volte è faticoso. Volevo sapere com'è stato lavorare con Battistone. Lui è davvero un essere umano unico, irripetibile, non si può clonare, eppure ci sarebbe tanto bisogno di farlo. È un attore generoso, è un uomo straordinariamente positivo, vive di bellezza, di dialogo, di momenti di unione, non lavora mai per se stesso, lui lavora per il film. E quando mi diceva cerca di andare in sala e di guardare il film, no? Evita di pensare a te, di giudicarti. È una persona che veramente sa sostenere il prima, dopo, durante, non... cioè poi dopo facciamo diventare antipatico perché sembra un uomo perfetto, però insomma manca poco. Grazie a Marta Cagnola. Intanto il cinema diventa sempre di più occasione per fare investimenti e impresa. Mentre il Piemonte lancia il fondo di garanzia regionale per le produzioni che si realizzeranno sul territorio, la Lombardia comincia a recuperare il terreno perduto. agli Stati Generali del Turismo all'Università Bocconi di Milano. Il presidente della Lombardia Film Commission, Alberto Contri, ha parlato dunque di cineturismo. In un reality sulla moda che viene visto in 120 paesi del mondo, siamo riusciti a far inserire alcune scene in cui le modelle vanno a visitare il Cenacolo di Leonardo. Nel Rigoletto a Mantova, che si è tenuto il 4 settembre, anche lì 147 paesi del mondo, 1 miliardo di persone che hanno visto lo splendore del Palazzo Te di Mantova, altro che uno spot pubblicitario, ma se pensiamo quanto sarebbe costata una campagna per promuovere il territorio di Mantova in tutto il mondo a 1 miliardo di persone, non oso pensare la cifra, cioè almeno 1 miliardo di euro, mentre con qualche contributo della regione, della provincia, del comune, della Camera di Commercio, e stiamo parlando di poche centinaia di migliaia, abbiamo ottenuto un risultato fantastico. L'ultimissima cosa è l'approccio a Bollywood, ci sono 8 milioni e mezzo di spettatori che adorano questi loro film, tutte storie d'amore e strappalacrime. Appena però una di queste storie viene ambientata in un paese straniero, un buon 10-20% di questi 8 milioni ci vanno in vacanza, per cui in questo momento la Svizzera è invasa di indiani che vanno a vedere i luoghi dove hanno girato dei film con i loro beniamini. Se io riesco a convincere o Milano o Lecco o Como o altri posti a girare, assistendo naturalmente alla produzione con benefici, interventi di vario genere, attirandola sul luogo, abbiamo fatto un'attività di cineturismo. Bene, con questo è davvero tutto, non mi resta che ringraziare Pietro Lacorte in regia questa mattina, di lasciarvi come di consueto allo spazio sull'Europa, all'altra Europa curata dal nostro Federico Taddia. Prima di tutto naturalmente gli aggiornamenti da GR24. Un buon fine settimana, naturalmente una buona Pasqua a tutti voi.